Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, impazza la moda dall'iPad, il nuovo marchingegno sui quali dovremmo leggere nel futuro libri e giornali. Gli editori sperano molto in questo nuovo strumento che potrebbe facilitare l'accesso di tante persone che oggi magari sono tenuti distanti da oggetti vecchi come i giornali e come i libri, potrebbero essere attratti da questi nuovi strumenti per diventare dei lettori e quindi sperano appunto che le nuove tecnologie facilitino la lettura. Ma insomma, che cosa sarà allora della lettura alla luce appunto di tutte queste nuove diavolerie che si impongono e dei quali naturalmente i più giovani si appassionano? Ci dà qualche elemento per la risposta Gino Roncaglia, che è un esperto di editoria digitale, docente di informatica applicata alle discipline umanistiche, nel libro La Quarta Rivoluzione, 6 lezioni sul futuro del libro, pubblicato dalla Terza, 288 pagine, 19 euro. Il libro vuole essere, come scrive l'autore, semplice e comprensibile, per far capire a tutti l'evoluzione del libro e dei dispositivi di lettura, come li chiama lui. Perciò, appunto, il libro è diviso in lezioni, a dimostrazione dell'approccio didattico e divulgativo che l'autore vuole avere. Ogni lezione è accompagnata perciò da un rimando alla rete, dove potremo trovare un'altra lezione audio con dei video accompagnati da slide e anche dei filmati. 6 temi sono delle lezioni: l'interfaccia di lettura, cioè l'evoluzione dell'oggetto che oggi noi chiamiamo libro, un tema che naturalmente ha a che fare anche col modo in cui si organizzano i contenuti di quell'oggetto. Il secondo tema: che cosa sono i libri elettronici, la storia e l'evoluzione di questo oggetto, poi le modalità di presentazione del testo, la gestione dei diritti e infine il futuro. E proprio sul futuro sentiamo l'autore. Buongiorno a Gino Roncaglia. Buongiorno. Lei conclude il suo libro spiegando che cosa non deve essere il libro elettronico, in pratica non deve diventare una brutta copia del libro tradizionale. Ecco, allora qual è la specificità del libro elettronico secondo lei? Ma secondo me il libro elettronico deve avere 2 caratteristiche per poter funzionare. Una, in primo luogo, deve essere capace di assorbire, per così dire, la nostra cultura del libro, quindi deve permettere di leggere in maniera comoda anche libri tradizionali, senza esserne una brutta copia, ma permettendoci comunque di leggerli con dispositivi di lettura che non ci facciano troppo rimpiangere la carta del libro. E in secondo luogo deve permettere di creare, immaginare e pensare forme di testualità nuove in cui al testo scritto si affianchino contenuti multimediali fondamentalmente. Quindi il libro elettronico può coesistere col libro tradizionale? Sì, io credo che possa coesistere, soprattutto può coesistere con la forma del libro tradizionale, cioè io credo che la forma del libro tradizionale debba essere assorbita dal libro elettronico. Penso che noi continueremo a scrivere e a leggere romanzi, saggi, testi diciamo costruiti in maniera tradizionale accanto a testi costruiti in maniera magari innovativa. Se poi dopo la questione è se il libro su carta sopravviverà alla rivoluzione digitale è più complessa. Naturalmente il nostro patrimonio su carta sopravviverà perché sarà importante conservarlo e permettere di continuare a utilizzarlo, a fruirlo. Però io credo che dopo un periodo anche abbastanza lungo in cui i media digitali e quelli tradizionali, e quindi libro su carta e libro elettronico, si affiancheranno sul lungo periodo, effettivamente i media digitali tenderanno a sostituire quelli tradizionali. Però per arrivare a questa fase c'è bisogno ancora di parecchio tempo, perché c'è bisogno di avere dispositivi di lettura che abbiano veramente quell'enorme comodità del libro, che per noi ormai è quasi un oggetto di natura, tanto è comodo e pratico, ma che invece è anch'esso un oggetto tecnologico. Lei sottolinea la responsabilità della politica della cultura, nel senso che secondo lei non occorre, anzi non bisogna delegare tutte le scelte relative a questo ambito agli operatori, agli editori, alle grandi multinazionali. Quindi come fare per garantire degli spazi appunto di libertà, di pluralismo in questo grande universo che si apre? Ma naturalmente la rete è di per sé uno spazio abbastanza aperto se viene utilizzata bene. Naturalmente si tratta appunto di evitare che in rete si possano creare delle forme di controllo, di monopolio molto forte. Quindi è importante che vengano scelti formati aperti, cioè formati non proprietari per la realizzazione di libri elettronici. È importante che i dispositivi di lettura permettano di leggere questi formati non proprietari. è importante che si eviti di costruire dispositivi da parte degli utenti, di acquistare dispositivi, perché poi questo è il fattore decisivo, che per esempio consentono di acquistare libri unicamente da una sola libreria. Questo è un meccanismo che alla fin fine limita la scelta dell'utente stesso. Questi aspetti di apertura sono già molto importanti, poi ce ne sono altri naturalmente che riguardano la gestione dei diritti. C'è una tendenza spesso a proteggere i libri elettronici rendendo molto complicata la loro fruizione su dispositivi diversi da quelli su cui si sono acquistati, cioè criptandoli, chiudendoli sostanzialmente. Io credo che questo funzioni poco, sia perché poi dopo si trovano sempre strade comunque volendo per piratare, diciamo, il libro, e sia perché diventa una scomodità enorme per l'utente. Io credo che bisogna concepire la protezione dei diritti anche come una forma di servizio all'utente, affiancando al libro protetto dei servizi e proteggendo il libro in modo che comunque il lettore possa leggerlo su dispositivi diversi, possa eventualmente prestarlo a un amico, come facciamo con i libri su carta. Nel suo libro c'è un richiamo a un certo punto a Platone e a Socrate. Ricorda lei che Platone ricordava di Socrate la diffidenza nei confronti della scrittura, che impediva in qualche modo di ricordare dall'interno di se stessi, lei cita Fedro. Secondo Platone il principale limite del testo scritto, leggo dal suo libro, rispetto alla conversazione orale sarebbe l'assenza di interattività. E allora oggi Platone e Socrate sarebbero dei fans di strumenti che invece puntano molto all'interattività come il libro elettronico? Questo è difficile dirlo, però sicuramente rispetto a quel primo dibattito, che è un dibattito famoso che è stato analizzato in molti modi sul rapporto tra oralità e scrittura sostanzialmente, in cui della scrittura viene criticata in qualche misura la fissità, che fa perdere agilità anche. Ecco, i media digitali possono permettere di costruire contenuti sicuramente più interattivi. Dire cosa avrebbero detto, diciamo, Socrate e Platone davanti al libro elettronico è naturalmente difficile, però io credo che l'idea che a volte si affaccia, diciamo, tra gli amanti dei libri, che il libro elettronico sia una specie di qualcosa che snatura il libro come oggetto culturale, come non sia necessariamente vero, dipende da come vengono costruiti, ma è possibile costruire libri elettronici che, sia riprendendo la tradizione del passato, sia in forme nuove, siano oggetti culturali capaci di sollecitare la nostra intelligenza, di farci pensare, proprio come sono i libri su carta. Bene, grazie a Gino Roncaglia, autore di La Quarta Rivoluzione. Buona domenica. Grazie. Parte dallo stesso presupposto, cioè il grande cambiamento tecnologico che rivoluziona l'approccio alla lettura, il libro di Marco Cavalli, 7 note sulla lettura, pubblicato da Angelo Colla, 182 pagine, 16 euro. Parte Cavalli da una tesi che io condivido, ne abbiamo parlato anche in questa trasmissione: la lettura non rende né migliori né peggiori, è una grande passione, una grande compagnia della quale non possiamo attenderci ricadute egoistiche. E invece proprio questo è l'atteggiamento col quale molti leggono o vorrebbero spingere gli altri a leggere. Ci sono molti, per esempio, che ritengono la lettura come un antidoto alla barbarie che avanzerebbe con le nuove tecnologie, scrive perciò Cavalli, delle proprietà curative dei libri non mi curo, personalmente non li userei, non dico per lenire l'anima, ma neanche un raffreddore. La biblioterapia mi sembra l'ennesimo fenomeno di costume che tenta di ridare al libro un appeal commerciale. E quindi, osserva, da me non sentirete una sola parola su che cosa ci si guadagna a leggere. Non ci si guadagna un fico secco, e questo è il bello o il guaio, fate voi. Sappiate che chiunque per istigarvi alla lettura vi promette di guadagnarci sopra qualche cosa, una cosa qualunque, vi sta menando per il naso. Sono d'accordo, leggete perché è bello leggere. Non so se Cavalli apprezzerà il titolo allora a questo punto che vi propongo, e cioè Elogio della lettura. Questo è il libro di un'antropologa francese, Michel Petit, è pubblicato da Ponte alle Grazie, 174 pagine, 14 euro, ed è tradotto da Laura De Tomasi. In realtà torna qui lo stesso tema, anche la studiosa francese infatti parte da una ricerca che ha fatto sull'utilizzo dei libri nelle biblioteche pubbliche. In questa ricerca l'autrice scrive di essere rimasta colpita dal divario tra l'approccio rigidamente utilitaristico della letteratura e della biblioteca di gran parte dei professionisti e quello dei giovani che avevamo incontrato. I professionisti parlavano diffusamente dell'utilità parascolastica della biblioteca e naturalmente c'erano poi altri usi della lettura, scrive l'APTI, meno visibili e più discreti, persino segreti, che contribuivano almeno nella stessa misura di ciò di cui parlavano i professionisti a far sì che i bambini, gli adolescenti e gli adulti fossero in grado di resistere ai processi di emarginazione e di elaborare un margine di manovra rispetto ai condizionamenti sociali e familiari. E allora il libro, questo libro, cerca di esplorare questo approccio, di capire che cosa la gente comune si attenda dalla lettura o che cosa piuttosto la distolga. Per esempio la paura, quella di certi ragazzi di essere presi in giro perché sorpresi a leggere poesie, o di molti adulti di essere considerati degli intellettuali a mostrare interesse per il libro. Perciò, conclude l'APTI, la lettura non può rimediare i mali del mondo, non garantisce automaticamente una carriera scolastica brillante, non rende virtuosi. Freud sottolineava anzi che i perversi sono grandi consumatori di libri. La lettura è più un gesto individuale o trans individuale che sociale, contrassegna la conquista di uno spazio e di un tempo interiori che sfuggono alla presa della collettività. Il libro, insomma, come spazio di libertà, aggiungo io. Ai lettori di narrativa segnalo il libro di Fabio Stassi, Holden, Lolita Zivago e gli altri, piccola enciclopedia dei personaggi letterari, 1946-1999, pubblicato da Minimum Fax, 332 pagine, 12,50 €. Dal commissario in gravallo del pasticciaccio brutto di Gabda a David Lowry di Coetze, 200 ritratti letterari che ci ripropongono altrettanti capolavori del Novecento, italiani e stranieri, che così potremo avere voglia di scoprire, di riscoprire, di rifrequentare attraverso la conoscenza e il recupero dei protagonisti. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, ci siamo lasciati parlando del rapporto tra libri e letteratura e adesso proseguiamo su questo filone con il libro di Elisabetta Rasì, Memorie di una lettrice notturna, pubblicato da Rizzoli, 262 pagine, 18,50 €. La lettrice parla delle scrittrici preferite, ne troviamo tante qui, che spesso, scrive la Rasì, hanno storie più romanzesche di quelle delle loro eroine. E sono anche donne eccezionali, scrive, non per particolari meriti artistici, ma perché la loro vita e loro stesse erano un'eccezione. E che cosa scopre la Rasì in questo viaggio? Attraverso di loro aggiunge i loro scritti alla figura delle loro vite. Il Novecento mi è apparso come il secolo del talento femminile. E qui appunto nel libro troviamo queste storie, concluse da un richiamo a un grande poeta classico, Ovidio, che ebbe l'idea di spostare, scrive la Rasì, la parola dalla parte delle donne. Le donne di Ovidio, infatti, si strappano le parole di dosso, scrive la scrittrice, o le strappano alla loro condizione di abbandono, con l'idea che quicquid amore iussit non est contemnere tutum, qualunque cosa ordini amore non è prudente disprezzarla. Passiamo adesso a un appuntamento letterario. Giovedì 1 luglio si inaugura a Gavoi e durerà fino al 4 luglio la 7ª edizione del Festival Letterario della Sardegna, organizzato dalla Regione Autonoma della Sardegna, dal Comune di Gavoi, dalla Provincia di Nuoro e dalla Fondazione Banco di Sardegna. E 3 giorni per molti incontri, non soltanto editoriali ma anche musicali e di altro genere, con scrittori, editori. Ci sarà anche un momento dedicato agli omaggi a 3 illustri personaggi che ci hanno lasciato da poco, cioè Alda Merini, G.D. Salinger ed Edoardo Sanguinetti. In questa occasione vi voglio segnalare il libro di uno scrittore barbaricino che apre uno squarcio potente sulla vita di quell'area ed è l'ultimo libro di Salvatore Niffoi, lo scrittore di Orani in provincia di Nuoro, che si intitola Il bastone dei miracoli, pubblicato da Adelphi, 156 pagine, 18 €. Il libro ha un incipit quasi epico. C'è un vecchio centenario che non vuole morire ma che ormai sente arrivata la sua ora e allora raccoglie intorno al capezzale 6 dei 12 figli superstiti. Sono 6 persone alle quali tutti ha dato nomi mitologici: Penelope, Elena, Ulisse, Achille, Ercole e Antigone. Li raccoglie intorno al capezzale, dicevo, e lui, che è stato un contadino sostanzialmente fanatico della lettura, confessa di essersi dedicato negli ultimi anni della sua vita invece alla scrittura. Cosa ho scritto, comunica ai figli esterrefatti, probabilmente niente che non sia già stato scritto. L'importante è che scrivere mi ha dato piacere, mi ha aiutato a sopportare il dolore, mi ha fatto capire che un romanzo era il tesoro più grande che potevo lasciarvi in eredità. E infatti ai sei figli lascia sei buste, sei pezzi di storie che, scrive il protagonista, formano un mosaico di parole che non hanno forse alcun valore. Messi insieme però significano qualcosa. Possono aiutarvi a capire che in questa vita ogni uomo sceglie la propria strada e costruisce la propria fine giorno dopo giorno. Tutti siamo frutto dell'amore e del caso, ma pochi sono al mondo quelli che muoiono per caso. E nelle sei buste troveranno i figli appunto sei spezzoni di storie, sei spezzoni ciascuno autosufficiente, che insieme però formano un affresco, o per meglio dire, come dice appunto il protagonista Licurgo Caminera, un mosaico di grande fascino di vita barbaricina che arriva fino agli anni 50 e 60. Troviamo la vita di una comunità chiusa, orgogliosa, vittima spessa della violenza e della sopraffazione, intrisa di valori patriarcali e tradizionali, che si apriranno lentamente a molte crepe. E di questo cambiamento in fondo è espressione l'artefice stesso del libro, cioè il protagonista Licurgo, il quale è capace di restituire il clima della sua remota giovinezza, di partecipare a quei sentimenti, a quell'ambiente, scrivendo quasi a 100 anni col computer. Passiamo a due titoli di narrativa femminile, ma che si svolgono in ambito storico, con addentellati con la musica e con la pittura. Il primo è il libro di Marta Morazzoni, La nota segreta, pubblicato da Longanesi, 278 pagine, 16,60 €, ed è il libro di un'autrice milanese che ci riporta nella sua città nel Settecento, in particolare negli ambienti dei conventi femminili. Qua si parla di quello di Santa Radegonda, dove le novizie imparano a cantare. Il libro prende spunto da una figura storica e si parla di una suora, Rosalba Guenzani, che aveva mostrato un talento straordinario, tanto da farla diventare il vanto del monastero. Proprio lei sarebbe stata affidata a un certo punto una novizia, appunto Paola Pietra, proveniente da una famiglia nobile, che ben presto mostrerà nel canto delle qualità sorprendenti, tanto da rafforzare la fama del convento alle cui messe accorreva allora tutta la Milano colta. In questo affollamento c'è anche un diplomatico inglese che ascolta la voce della suora, e da questo incontro nasce la trama del romanzo, che vede la stessa suora compiere una scelta drammatica, la fuga dal convento, cioè per coltivare la sua passione, e quindi passerà da Milano a Roma, a Venezia e poi anche a Rodi e in tante altre terre a lei ignote, nell'avventura di una donna che afferma la propria personalità e costringe perfino al silenzio le sue consorelle, che non potranno più cantare. Sentiamo dal libro una breve considerazione dell'autrice sull'emozione delle messe cantate, che ci riportano a alcuni accenni di un dibattito che è ancora molto attuale. Successe un fatto, o meglio il fatto successe alla messa solenne dell'Assunzione della Madonna il 15 agosto. In una Milano calda e umida, che aveva poco da offrire per distrarre dalla noia e dalla temperatura, la messa cantata delle monache poteva essere un diversivo anche per un anglicano di incerta fede, in giorni di scarsa compagnia. Andò alla messa cantata come si andrebbe a teatro, e non sbagliava. Il rito della messa è teatro puro, e chi ci crede ne è attore, chi non ci crede fa lo spettatore, e segue passo passo la sequenza di una puntuale messa in scena. Uguale la parola, eh? Una perfetta drammaturgia che si ripete identica a se stessa da secoli. E del resto, secoli dopo questa nostra peculiare cerimonia di un lontano agosto milanese, mi sarebbe capitato di sentir dire da gente di illuminata razionalità e convinto laicismo quanto trovasse interessanti e più che interessanti, belli sul piano emotivo, i riti celebrati dalla Chiesa Cattolica. Con l'occhio umido di emozione, ma critico e distaccato, questo qualcuno avrebbe detto di provare una sorta di riposato piacere ad assistere a tale democratico spettacolo, naturalmente guardandosi dal partecipare. Il coinvolgimento materiale, fatto di parole e gesti, genuflessioni, segni di croce, piccoli pentiti colpi sul petto, è degli attori. Allo spettatore, solo l'umore molle, cerebrale, dell'estimatore di un atto unico che va in scena con puntualità. L'autore ha considerato, a questo punto, che accusare la Chiesa, come fa qualcuno, di avere smantellato a suo tempo il teatro non è realistico. Ha solo tentato una delle più grandi riforme della scena che si potessero immaginare e per un lungo periodo ha tenuto campo con vigore e prestigio. Poi, anche lei, ha dovuto arrendersi agli anni e alla concorrenza di altri palcoscenici. Di pittura invece parliamo con il libro di Patrizia De Bicche van der Noot, L'uomo dagli occhi glau, che è pubblicato da Corbaccio, 296 pagine, 18,60 €. Lo spunto è dato dal ritratto di Tiziano del giovane inglese o l'uomo dagli occhi glau, che appunto che è custodito oggi a Firenze alla Galleria Palatina di Palazzo Pitti. Il soggetto non è mai stato esattamente identificato, ma l'autrice ci prova costruendo un appassionante romanzo che ci porta al pieno Rinascimento, periodo nel quale non esplode soltanto la grande arte, ma nel quale ci sono grandi sconvolgimenti politici che hanno al centro la controriforma con cui la Chiesa cerca di rispondere alla riforma protestante. E dunque qui troviamo proprio i grandi protagonisti del Concilio di Trento, da Paolo III, a suo nipote il cardinale Alessandro Farnese, al collega cardinale Reginald Pole e a tanti altri che compongono questo affresco e questa storia appassionante, al termine della quale naturalmente saremo in grado di attribuire un nome al magnifico ritratto dipinto da Tiziano. Il pittore infatti era rimasto colpito dal soggetto. Lord Templeton mi intriga, mi ha fissato a lungo, è vigile come una belva in agguato, pronta a scattare. Sono certo che sospettasse la mia presenza dietro lo spioncino dell'autoritratto. Quell'uomo ha due volti, mi affascina, è come soffuso da un'aura indecifrabile di melanconia. La sua espressione è intensa e misteriosa allo stesso tempo, ma è un bell'uomo. Mi piace e gli farò il ritratto. E questo appunto è Tiziano che parla nel libro della De Bicche van der Noot, e come sappiamo il ritratto non solo lo fece, ma realizzò un grande capolavoro. E a questo punto il confettino. Un confettino artistico con il libro di Bimba Ledman, che anche lo illustra, Come sono diventato Marc Chagall, pubblicato da Edizioni Arca, 16 €. E questa è una suggestiva introduzione alla vita del grande scrittore e del suo ambiente, della sua storia artistica, con molte illustrazioni che citano alcune delle sue opere più famose. E con questo ringrazio Vittorio Mussini in redazione e Filippo Aureggi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, il nostro sito sul quale potete riascoltare la nostra trasmissione e tutte le altre, www.radio24.it. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento a settimana prossima.